non guardo mai lontano, perché la vita mi spaventa e vivo piano, yeah. In una notte così ti avrei baciato ancora e ancora, ora che il buio si consuma e tu non torni più. Ho provato, riprovato, quante volte nella notte ho preso fiato. Non ti voglio, poi ti penso, resto sveglia, diventi il mio tormento. Quante cose che ho sbagliato, quante che ho capito, ma quella cosa che sembrava amore mi fa male. Una notte come questa non mi prendi mai per mano, perché la vita ti accontenta e sogni solo, yeah. E sotto il cielo da qui ti avrei baciato mille volte, ma dovrei chiudermi le labbra e non parlarne più. Ho provato, riprovato, quante volte nella notte ho preso fiato. Non ti voglio.